Sono macro sul micro, cola sangue dalla biro. Ogni volta che scrivo, muore un sogno di un divo. Questo mondo è cattivo e già da un po' l'ho capito. Ho la filosofia di vita scritto sul mio terzo dito. Scrivilo sopra un sito, baby Kate ti fa schifo. Ma resto quella preferita del tuo rapper preferito. L'hip hop l'hanno ucciso come gli ultimi dei miei eroi. Dentro la scena guerra e pace come Tolstoy. L'hip hop è il suo suicidio, li crosso come i toy. Io l'ho ripartorito, fiocco rosa al suo arrivo. Alzo la cresta come punk, yeah, Sid Vicious. Ho creato un mondo da capo, amore in vitro. Sto una favola, io sto una favola. La lupa cattiva sta capo tavola. Io sto una favola, io sto una favola. Fermate la mia bambola, ucciderà tutti. Io sto una favola, folletti e mostri. Non è mai uscito un principe baciando sti rospi. Fanno musica o gossip, chiudo bocche col bostic. Sono un pesce fuori d'acqua e tu la trota di bossi. E la stupidità non c'è mai fine, come l'Italia è guai. Qua non c'è lieto fine, mica è un massaggio thai. Sono tutti rema nella famiglia reale. Tu sei la sorella di Kate, una pipa regale. Cattivo esempio, scandalizzo i parioli. Ho visto i migliori fottersi da soli come i segaioli. Sempre più fuori il mio micro e maxi, peccatisti spicci come ha fatto il popolo a Craxi, nel cuore della città come un fottuto taxi. Io faccio rap mentre gli hater premono tasti. E grazie a Dio un gran bacino d'utenza, mentre lei col suo bacino ha una grande utenza, capisci? Sto una favola, io sto una favola. La lupa cattiva sta capo tavola. Io sto una favola, io sto una favola. Fermate la mia bambola, ucciderà tutti. Non sono la regina, non voglio la ghigliottina. Fossi Cenerentola, due schiaffi alla madrina. E non chiamarmi principessa, nemmeno quello. La principessa non dorme per colpa di un pisello. Per colpa di sto gioco, adesso faccio yo-yo. Prendemi per gioco, attaccati a sto yo-yo. Per colpa di uno stronzo, faccio una solo e volo. Sto una favola, ma la mia bambola è psicopatica. Sto una favola, io sto una favola. La lupa cattiva sta capo tavola. Io sto una favola, io sto una favola. Fermate la mia bambola, ucciderà tutti. Sto una favola, io sto una favola. La lupa cattiva sta capo tavola. Io sto una favola, io sto una favola. Fermate la mia bambola, ucciderà tutti.